ciao a tutti. Sì, io volevo invitare tutte le donne in ascolto a partecipare ad un'assemblea delle donne del consultore di Piazza dei Condottieri straordinaria che si terrà lunedì 11 aprile dalle 17 alle 19 presso il consultore di Piazza dei Condottieri 34 a Pigneto. Si tratta di un incontro, di un'assemblea territoriale che noi abbiamo promosso per diffondere quanto più possibile all'interno del nostro territorio le informazioni lo stato della legge, della proposta di legge Tarsia e della mobilitazione delle donne riguardo questa proposta di legge che è al momento in discussione presso alcune commissioni della regione e che purtroppo minaccia i consultori con una serie di proposte che tolgono alla donna il diritto di scegliere liberamente, che introducono nei consultori ad esempio le associazioni antiabortiste e cattoliche. Per cui è una mobilitazione molto importante quella che sta riguardando tutto il territorio romano e che da molti mesi ha avviato la raccolta delle firme. Oggi sono state raccolte 50.000 firme e in vista della consegna delle firme che avverrà il 14 di aprile con un'iniziativa proprio in regione, noi vorremmo aprire un confronto con il nostro territorio come abbiamo fatto fino ad oggi proprio per capire insieme quali rischi comporta e quanto toglierebbe a noi tutte questa legge semmai dovesse diventare legge. Questa iniziativa l'abbiamo inserita nell'ambito di una serie di iniziative che al Pigneto stiamo preparando in vista del 25 aprile. Ce ne sarà un'altra il 20 al centro sociale ex SMIA sull'immagine della donna. Presenteremo in quell'occasione l'ultimo numero della rivista DVF. E poi il calendario delle altre iniziative che dal 24 al 25 verranno proposte verrà diffuso al più presto quindi noi saremo presenti il 24 e il 25 in piazza Persiani in Uccitelli con nell'assemblea e con un banchetto informativo proprio su questi temi tra gli altri appunto quello del consultorio. Quindi aspettiamo tutte lunedì dalle 17 alle 19 dentro al consultorio di Piazza dei Condottieri per difendere questo spazio per noi importantissimo.